dicevo, un sottotetto non ci sarà con le colonne, basta che lui apra una tegola, la infila dentro, l'attacca alla colonna del tetto, del sottotetto, e poi rimette bene la tegola. Addirittura c'è gente che ha bisogno di quelle tegole finte, cementate, e non è tratta mai con cui chiudeva nulla. Sì, ci sono i sistemi, se vuoi trovarli già ci sono. Eccetera, è uno stile sugli 11 metri che sui 10 metri. L'unico problema è che costa un pochino, quello sì, costa più della manta, ma non ci sono problemi. Comunque, bella cronaca, se per caso a qualcuno interessa, Rita Grassi a Pedanieda, la Mantova, ho chiesto l'altro giorno, la Mantova Turbo, ce l'ha, ne ha solamente una, e costa 111 euro, addirittura meno di quanto costa in continente. Questo per la cronaca, se a qualcuno interessasse. Va bene, avanti, e già. Perché non te l'hai comprata, ragazzi? Perché non le compro più, quando le cade, ripeto, non lo so nemmeno se le piazzo, ce l'avevo, poi ripeto, lo sai, l'ho data a mia nipote, dunque, quando sarà morto, poi, se non c'era lui, la faccio arrivare, se proprio mi interessa, anche perché mi sto orientando sulla Game Master, capito, già, così almeno i piccioni non si possono mettere sopra, tranquillamente. Cosa di più non me ne frega niente, però se vale di più, tanto è guadagnato, no? Beh, certo che sì, certo che sì. Tu pensa che l'altro giorno, siccome abbiamo la casa Santa Teresa, per i dipendenti hanno preso la casa, ero lì nel terrazzo, prendendomi il fresco, dopo pranzo, ho visto queste cornacchie calandosi su un'altra del televisore. A un certo punto hanno spiccato il volo, ma sai come ha fatto quell'affare? Ha vibrato 50 volte come volato. Non spicca il volo, sembra così, anche se le volate è leggero, però quando dà la spinta, insomma, qualche chiletto lo produce, no? E dunque, un po' di fastidio nella l'antenna. Purtroppo è così. Capito? Avanti, Pierpa. Assolutamente no. Io piedi e meno leggeri anche, suppongo che sia così. A Gianni mai ve ne sarà capitato uno di quelli che pesa poco, magro, ma ci saranno anche i gabbiani grandi, visto la grandezza che hanno, insomma, e nel modo come si buttano in mare quando devono prendere il pesce, danno la sensazione che sono dei volatili un pochino pesantucci. Invece Gianni mi sto dicendo che sono leggeri, boh, non lo so. Non so cosa dire, la verità. Già, cosa vuol dire Trisca? Boh, se tu mi stai dicendo così, forse, ma era grande, ma forse era magro, non lo so, già, è probabilmente così, No, era di porzioni grosse, era abbastanza massiccio, come sembrava molto più pesante, in effetti mi ha meravigliato perché era leggerissimo, cioè prenderlo in mano era proprio leggero, sembrava vuoto dentro, ecco, dava quell'impressione. Ho capito, sarà stato pieno di aria, sarà passato la gomita prima, si è fatto gonfiare, per farsi vedere così robusto, invece in realtà è leggerissimo, e vabbè, non so cosa dirti, Fra. Vabbè, avanti, Fra, facendo scaldare, lo sai, Fra? Sì, davanti è caldo, sempre caldo, sempre caldo. Infatti. Cioè, va bene, altro che alla grande, Fra, non ci sono problemi. Va benissimo, va. Avanti, Giampa. Fanno anche i pastori, tutto. male. Oh, scusate un attimino che vado a così a Capicolino. Riprendi giù. Beh certo, sai cos'è? Che gli stranieri si accontentano perché loro sono abituati ad un salario molto basso e con i soldi che guadagnano qua là stanno benissimo, capito? Io mi ricordo tempo fa c'era stato un incidente stradale, c'era stato qui in Italia, e c'era un italiano e un rumeno che erano morti entrambi, erano morti, no? Alla fine quando hanno fatto la causa di risarcimento eccetera, all'italiano le avevano dato roba di 301.000 euro, le avevano dato per la morte di questo giovane, alla famiglia, mentre invece alla famiglia del rumeno gli avevano dato 15.000 euro. E la scusa qual era? Dice che 15.000 euro, siccome lui è rumeno, in Romania sono un sacco di soldi, mentre invece lui lavorava qui in Italia, lavorava. Io non capisco come si possa, fare certe valutazioni, come se la morte di un uomo rumeno non vale quanto quello di un italiano. Ma a parte quello, te ne volevo dire, l'altro giorno ho visto le ruspe che buttavano giù dei caseggiati fatti abusivi dai rumeni, perché la Guardia di Finanza aveva scoperto che c'era un quartiere lì a Roma che avevano fatto tutte case abusive, ma case belle anche, ben fatte, e tutti quanti avevano che la Mercedes, che la BMW, tutte macchine di grossissima cilindrata, no? E però non avevano reddito, anzi prendevano anche dei contributi da parte dello Stato. Sono andati lì e te li hanno visti che avevano tutti quanti casa loro fatta abusivamente in un quartiere, e poi allora cosa ha fatto? Il comune ha mandato la ruspa e le ha buttato giù tutte le case, e le risarciscono queste case che sono state costruite abusivamente da 10.000 a 50.000 euro le danno. Loro dicono sì, ma io c'è anche 6.000 e 50.000 euro, però non ho più la casa. Però la casa devi pensare che tu ce l'avevi abusiva, sei arrivato lì, ti hai preso un pezzo di terreno che non è tuo, ti hai costruito la casa abusivamente e hai fatto le cose che non dovevi fare, poi non fai denuncia in rete, non fai niente, dicendo che sei un povero e ti prendi anche dei contributi da parte dell'Italia, capito? E loro purtroppo vivono di questi espedienti già, e allora è successo che li hanno fregati perché sono venuti a conoscenza che loro invece stavano bene in realtà, capito già? In Italia è così, ma ce ne sono anche italiani che fanno di queste cose, tipo quello che c'ha la casa, si mette la casa in affitto e poi prende la casa comunale, non ne hai mai sentito? Un'altra volta anche uno via Baldetta che faceva così, capito? Sì, ma io ho conosciuto gente che addirittura a case popolare ne aveva due assegnate, uno intestato al capo famiglia e uno intestato alla famiglia, capito? Però hanno fatto finta di essere separati, invece in realtà erano sempre insieme, e allora hanno avuto la casa popolare, sia l'uno che l'altro. Beh, sai cosa ha fatto questo? Questo ha preso uno e se l'ha affittata, perché tanto viveva a casa della con la moglie, questo tipo qua viveva. Ma per dirti, queste ingiustizie si devono anche controllare, secondo me, come quelli ad esempio che hanno la casa popolare, finché non ce l'hai sono d'accordo, ognuno ha diritto alla casa e va bene, ma una volta che poi tutti i sistemi riesci a fare una casa propria, secondo me la casa popolare la dovresti lasciare, perché c'è sempre qualcuno che ne ha bisogno più di te, dal momento che tu, grazie a Dio, sei riuscito a fartene una tua di casa, compratene una o costruirtela una, perciò non hai più bisogno della casa dell'ina casa o della casa comunale. Io la penso in questo modo, purtroppo no, di questi controlli non la fanno già, e allora ecco che ci sono anche queste ingiustizie, c'è gente che ne ha anche due le case e c'è gente che non ne ha niente, purtroppo è così, capito? Per già qua. Thank you. posto di San Camillo, che era lì su a San Francesco, no, nella zona San Francesco a Sassari, quando questo caseggiato era disabitato da parte dell'ospedale di San Camillo, l'avevano occupato, l'avevano, e penso che ci siano ancora certe famiglie che ci vivono lì, abusivamente l'avevano occupato. Però tu guardavi giù e c'erano anche di alta cilindrata e molto da 30.000 euro c'erano giù, cassettina. Cassetta, io dico questo, ma se tu hai la possibilità di mantenere una BMW ad esempio o una Mercedes, però non, ultimamente che non puoi pagarti un affitto, e no, non va bene così, nella maniera più assoluta. Tu la casa la devi lasciare, perché se no io ti faccio pagare un affitto adeguato, non un affitto da casa popolare, capito? Già, il discorso è questo, e di queste situazioni ce ne sono tante qui a Sassari. Anni? Scusa, Angelo, che mi era stato aperto del mio orologio e mi dava fastidio. Sì, non solo di quello, ce ne sono di gente che approfitta di queste situazioni, e quei falsi invalidi, per dire, io ho un'invalidità del 65%, non percepisco nessuna pensione, e non ho nemmeno un lavoro adeguato al mio tipo di invalidità, perché? Perché io ho avuto una paresi a un braccio, una paresi ostetrica quando sono nato, e ho un braccio che non mi funziona bene in tutte le posizioni. Per cui io dovrei avere un lavoro, diciamo, che si adegua, non potrei fare sforzi e cose. Purtroppo lavoro non te ne danno, perché per avere questo lavoro qui mi dovrei iscrivere alla lista degli invalidi civili, mi dovrei licenziare dal posto di lavoro dove sono, e come me lo possono dare? Dopo un anno me lo possono dare fra 50 anni, capito? Sì. Sì, in effetti è così. No, ma poi non è conveniente per niente, perché lo stipendio sicuramente è gran lunga superiore alla pensione che ti darebbero per invalidità. Dunque non converrebbe, come fa una famiglia, no? Nella maniera più assoluta. Però purtroppo ci sono anche queste ingiustizie, non so. Ci sono poi quei furbi che hanno il lavoro e hanno anche la pensione di invalidità, quelli che già lo vediamo che ogni giorno ne scoprono gente completamente ciechi, che prendono la pensione di invalidità e che prendono anche l'accompagnamento, che poi vanno in giro invece a guidare la macchina o a sedersi nella panchina a leggere il giornale. Non va bene, così non va bene. Però quante che ne hanno scoperti? Ne hanno scoperti tanti, li hanno denunciati e devono anche rimborsare. Ma che cosa rimborsano? Un pensionato non potrà mai rimborsare una cifra che aspetta, non è possibile già. Quanto riguarda il discorso della casa, è vero, uno ha una casa e poi magari subentrano i figli, perché i figli magari si fanno la residenza in quella casa lì, hanno il diritto, hanno di secondo le leggi, di prendere la loro, si fanno la cultura, poi mentre state i genitori, la casa, poi magari i genitori muoiono, non ci saranno più, e subentra magari un figlio, subentra, o una figlia, perché si fanno la residenza proprio nella casa dei genitori e hanno il diritto di stare lì, capito? E dunque la legge glielo consente, dice che quella casa lì, e una volta che è assegnata ad una famiglia, quella famiglia se la sfrutterà dalla persona più grande alla persona più piccola, tutta la vita, capito? Funziona così, e quando poi è il momento subentrerà anche un nipote e così via. Dunque appartiene sempre a quella famiglia lì, la casa della, praticamente è come se lì la casa, oppure l'ente popolare avesse in un certo senso regalato quella casa a quella famiglia lì, perché poi lì di altre persone fuori da quella famiglia non entrerà mai più nessuno, perché poi lo sanno tutti, fanno sempre così, si fanno la residenza, avendo la residenza poi hanno il diritto, hanno per legge di farsi la cultura e dunque di occupare quella casa. Purtroppo è così, comunque, andate a mattessi, quello che dico. Vabbè, dai, riprendi già qua, faccio un altro passaggio e poi chiudo, dai. Riprendi già qua. Purtroppo ci sono delle ingiustizie che bisogna però mettere in riga queste persone. Diciamo che la giustizia è fine. macchina prima o poi ci arriva. Molta gente crede di essere furba. Non so se hai sentito, hanno telefonato per una risa in questa casa, sono andati perché stavano micciando male i timori, hanno trovato la piantagione di marijuana e c'era le buste dentro i rendu, nel cagliaritano. La giustizia prima o poi arriva, o in una maniera o nell'altra arriva poi a scoprire le cose come sono, solo che c'è del marciume anche lì dentro adesso, capito? Il fatto è quello, quanti carabinieri e i poliziotti arrestano perché sono in mezzo a questi giri. Ok, vabbè, dai, io vi saluto, ciao Gianni, ciao Giampaolo, grazie per il consiglio a entrambi, ci sentiamo alle prossime, dai. In effetti purtroppo è così, delle ingiustizie ce ne sono tante, ce ne sono, tutto questo comunque è sempre la colpa per costruire sempre della politica, ma se dovessimo parlare anche di quello adesso saremmo una settimana parlando, perché lo sappiamo benissimo cosa avremo da dirci tutti quanti noi. Ciao ancora, Giampa, alla prossima, grazie per il consiglio, ciao già, riprendi pure, io chiudo e poi ci sentiremo domani magari, riprendi pure già, ciao a tutti e due, ciao. Ciao, ciao Giulio, dai, io do una carica e non continuo serata, avanti Giampa. Ciao Giulio. Ciao Fra, ciao, ci sentiamo. Raccontare di sé, capisco, una cosa che non percepisco proprio. frutto. E invece quelli falsi validi non li chiamano, li chiamano presi, quindi all'inizio si fa chiamare, anche se il cursato diciamo gli si soffre di manfine non li chiamano di male. Soccorso al sabato. quando arrivavano le ambulanze con la sirena, lui alzava le sbarre, sì, in effetti Michele non è che sia un falso invalido, è un invalido al 100%, però dico, ha un lavoro adeguato al suo tipo di invalidità, quello che sto dicendo. A me mi interessa fare un lavoro più leggero, adeguato al mio tipo di validità, quello che c'è. Invece purtroppo sei costretto a fare un tipo di lavoro che praticamente ti potrebbe far venire a Parigi. È quello che c'è, che te l'ho detto proprio papale papale. Oh, ciao ragazzi. Ciao Fra, andate. Ehi, dai, vado a cena. Che mi hanno chiamato. Ci sentiamo, vai. Certo, siamo per più simile. Ciao Gianpa, ciao anche a te Gianni, buon proseguo. Ciao Fra, ci sentiamo, dai. Mi dispiace che non ti ho fatto intervenire, dai, forse ti sei annoiato. No, ragazzi, dai, stavate discutendo di questo e vi ho lasciato discutere. Ciao, abbiamo salutato lo stesso a Giulia. Sì, sì, ti ho sentito. Va bene, dai, Fra, buona cena quando la farai, poi magari se ne voglia ci sentiamo dopo. Campa, un'altra cosa, a Porto Torres non so se non sta più entrando nessuno, come mai? Vabbè, perché tu poi hai continuato il discorso, allora Giulio se ne stava andando, allora l'ho salutato. Comunque dai, non ti preoccupare, ho fatto velocissimo, ho fatto, vero Gianni? Sì, detto ciao Giulio e basta. Se ne va a prendere il fresco, io sono il primo, se adesso con fucile prendo e vado, non è che almeno che magari non ci sia nessuno disponibile, allora può essere la radio, però se qualche amico mi telefona mi dice io già faccio uscire a prendere sui gelati, io figlio e vado, la verità, perché io il caldo non è che lo sopporto molto, penso che anche tu sia così. Io a casa so che pantaloncini di cose ha pentoluto, neanche non vi riesco a essere potessi stare anche nudo, perché il caldo a me mi ammazza. Ma quest'anno l'ho acceso e non toglie liquido nel bidone, non capisco il perché. Adesso ci dobbiamo decidere a chiamare un tecnico, speriamo che non ci decidiamo di inverno a chiamarlo, perché questo condizionatore ce l'abbiamo, ma non funge, non raffredda bene, capisco? Non esce il liquido, l'umidità non deve umidificare. Una goccia, niente. Raffredda, sì, un pochino, ma leggero, prima di venire a pure un freddo, secondo come ti rubuni, non è che si intende assai, e quindi sto soffrendo quest'anno, sì, c'ero il condizionatore, ma c'ho proprio le pompe di calore che fanno caldo d'inverno e fresco d'estate. Thank you. 2002. Sono di quelli potenti, però con 3A, praticamente consumo basso, eccetera, eccetera. Quindi sono dei collezionatori che vanno veramente bene. Solo che 4 anni ce l'abbiamo noi questi qui. 4 anni, tutti gli anni che la accendevamo andava benissimo. L'anno scorso addirittura gli ho pulito i filtri, non ne avevo mai pulito, li ho puliti l'anno scorso e sono andato benissimo tutta la stagione. Sto facendo quest'anno, dico così, non so se hanno toccato qualche tasto di. Magari una fessinia, mi giampa, magari è stato toccato qualche tasto del telecomando, cosa ne so, ho provato e riprovato, io non ce l'ho fatta, chi lo sa se è quello lì o che cos'è, quella della scusa magari. comunque io non ho il computer, non l'ho fatto. Io vado alla mia conferenza, va, io ti mancano finne, già prima di dire la vita, ne va, c'è una bella la lira, poco di va. Ci sentiamo, ti auguro buona serata, è stata cose belle, ciao ciao.